24 mattino di Alessandro Milan. Ciao grande Alessandro Magno. Aiuta chi finanzia l'ISIS, è un complice. Renzi, nel momento in cui dice sì a dare 6 miliardi di euro alla Turchia sotto il ricatto dei migranti, complice. Finitevi la merce che di là non funziona, altro girone, altro regalo, niente caramelle per il leccaculo, il girone è giusto, ok. Chi si illude oggi urlando chiudiamo le frontiere non sa, non si rende conto del fatto che molto spesso i nostri nemici sono già dentro le nostre città. Ora è la fine del mondo che regge. Che ora è. Terroristi infami, figli di puttana, e dall'altra parte guerra fondai, si fanno guerre, buttano bombe, esplodono nelle nostre città e ci rimette sempre la povera gente. All'estero si deve intervenire in un altro modo, ovviamente senza andare a bombardare la Libia. Io mi auguro che Renzi resista. Renzi sta resistendo, io questo gliene do atto. Eccoci qua. A briglie sciolte, sono le 6:34 minuti, bisogna correre perché assolutamente siamo entrati in ritardo e quindi c'è poco tempo. Iniziato in maniera un po' psichedelica, eh. Io oggi voglio sfidare l'ISIS e quindi sono venuto a Roma, dove c'è la culla del Vaticano, dove c'è, dai, è inutile negarlo, è uno degli obiettivi. Intanto ho lasciato Milano con spregio al pericolo, ho preso un treno, sono andato alla stazione, è ora di punta. Sono arrivato a una stazione, termini, ora di punta. Brividi. Bisogna andare avanti, eh? Bisogna andare avanti. 6:34 minuti, sono qui. Davanti a me c'è un Valerio Rocchetti, tecnico a Roma, che oggi compie 40 anni, signori. 40 anni e sentirli tutti. Dovreste vederlo. Valerio Rocchetti, eccolo qua. Saluto anche Peter Bescapè a Milano, Lorenzo Nespoli in redazione. 40 anni e sentirli tutti. Un po' jihadista con questa barba lunga, devo dire, Valerio. Devo subito convocare i miei due amici del mattino, a cominciare da lui, il mitico Vincino. Come stai, Vincenzo? Eccoci. Certo che Vincenzo, io ti ammazzerò. Sì. Oggi Alberto Fortis è un po' un inno, un po' un inno jihadista anche questo. Come va, Vincenzo? Tutto a posto? Siamo qua. Dove stai? È qua vicino, insomma. A Roma, sì. Nel tuo peregrinare, non so, ogni tanto stai in Mondello. No, oggi sto a Roma. Anche tu, sprezzante del pericolo. Così, normalmente, non è che... Però stai chiuso in casa. Però stai chiuso in casa. Se vuoi esco, non è... No, va bene, lo so. Se vuoi fare due passi, magari no. Fare due passi esco. Evita le ore più di punta, insomma. Qual è l'ora più pericolosa secondo te? Il Colosseo, dove si concentra il maggior numero di persone? Non ho la minima idea, l'ora più pericolosa. Va bene. Perché quelli, questi qua sono alle 8-9 del mattino, cioè è un'ora pericolosa. No? Sì, 8-9 del mattino. Sì, poi anche le 7 di sera, però insomma non è che a Parigi hanno colpito di sera. È vero. La verità è che dobbiamo abituarci a questo mondo. La notte. Dobbiamo abituarci, lo dico anche perché, ragazzi, cioè, non bisogna perdere il sorriso. Lo so, sono momenti difficili, sono momenti duri, ma insomma, bisogna affrontarla così. Intanto voglio convocare, oggi è un po' una provocazione, me ne rendo conto, perché chiamare la nostra mitica Aurorina Lussana. proprio oggi, eccola, come stai intanto? Come stai? Buongiorno, buongiorno caro Milan. Una bella giornata, è il giovedì santo oggi. È Milan. Giovedì santo, è vero, è vero. Oggi è il giovedì prima della Pasqua, dedicato sì. all'Eucarestia. E io ho un po' di lavoro in casa da finire, quindi mi dedicherò anche a quelli. Vabbè, che cosa? Cosa devi finire? Il lettino per la bimba, no? Devo finire l'impianto qua perimetrale esterno. L'impianto. Con i sensori infrarossi. Di che cosa? Perché? No, qua Cantù sai che io devo presidiare il territorio, si fa resistenza casa per casa. E ci si deve un po' organizzare. Oh mamma mia, mamma mia. Non lo so, tu ti difenderai con i cessetti, io ho altri metodi, senti. Cioè, hai capito Vincino, Aurora Lussana, che no, si vuole, vuole mettere il sistemi anti-intrusione, l'invasione, ma di chi? L'invasione di chi, Aurora? Ma cosa stai ascoltando, tra l'altro, in sottofondo? Alla mattina, ultimamente, Carmina Burana. Aiutano un po', sì, perché c'è un po' di spazi ormonali, aiuta perché, la musica. Perché Vincino è incinta, ecco. aspetta una bimba, la dinastia padana sta per continuare. Cosa? Vincino, mica c'è soldi per l'utero in affitto, io ho dovuto far tutto da sola in autonomia. Beh, in autonomia, insomma, col metodo classico, ecco, con una congiunzione ancestrale. Sì. Cosa c'è, Vincino? Non va bene che la dinastia padana... No, assolutamente. E fa ascoltare i Carmina Burana subito alla figlia, certo. In arrivo, perché così no, si abitua. No, queste sere le sto leggendo un libro straordinario, Senza Radici, di Marcello Pera, Josef Ratzinger. Europa, relativismo, cristianesimo. Vincino, come crescerà insomma la bimba di Aurora Lussana, che già in grembo sente le parole di Josef Ratzinger su... meno male, sentirle un po' di più le parole di un'islamica di certo, guarda, islamica per contrasto vengono fuori così, assolutamente no, effettivamente stai un po' attenta Aurora, cioè, perché un guarda genitore che... fascista nasce il figlio comunista, un genitore comunista è il figlio fascista, viene obiettivamente per contrasto viene così. Attenzione, no, effettivamente guarda che non ha tutti i torti Vincino, guarda che ci sono casi di cioè, ma sono cresciuta con un metodo assai anarchico e quindi poi alla fine ho scelto in maniera autentica qual era il mio percorso umano, spirituale, politico, culturale. E quindi siccome il futuro dei figli non si può ipotecare essendo la vita un dono, a differenza del deduttivismo ottocentesco a cui appartiene Vincino, credo cos'è? Allora, ottocentesco sicuro Vincino, ma questa poi... a cosa appartiene Vincino? Ma no, deduttivismo ottocentesco, va bene nel senso, diccelo in modo che possiamo capire anche tutti noi alle 6:40 minuti del mattino. No, vabbè, penso che la sua formazione ideologica non gli consenta di credere che esistano spiriti liberi. Ma assolutamente, come non credo? Ma no, ma lui è un anarchico. L'essenza della mia vita, la libertà degli spiriti, non alcol, tutto, no, non è che... Lui è un anarchico, vabbè, comunque insomma tra l'altro ricordatevi che al 349-238-6666 anche via però WhatsApp mi ha fatto venire un'idea questa, che la cosa? Bussana. Che cosa? Una io vignetta? Metto il busto d'Andreotti fuori casa, presi il territorio. Ottimo, è giusto. È giusto. Metti il busto di Andreotti e se vuoi una mano, tanto sto a Roma, vengo a spostartelo anch'io. Cioè, abbandonato la nostra Lombardia. Sono a Roma, sì. L'ha già detto, detto. Ho abbandonato la Lombardia, mamma mia, sì. Non è che c'erano i lanzichenecchi da affrontare. Ti manderei Talese io a te, guarda. No, ma non lo so, cioè, hai detto una cosa, abbandonato la Lombardia come se avessi tradito e voltato le spalle alla patria. Sì, chi volta il culo a Milano volta il culo al pan, ricordatelo. Questo è vero, chi volta il culo a Milano. Ci sono 400 jihadisti pronti a colpire con nuove stragi e tu vai in giro a Roma a fare il turista. Mamma vai almeno a fare un giro dal Papa, va, che oggi è Giovedì Santo. Possiamo, potremmo fare così. Vabbè, allora Vincino, qua, l'avevo detto che era un po' la provocazione chiamare Aurora Lussana in questi giorni, insomma, in cui... No, ma perché? Ma che innocua dei padani, dai. La no, più innocua dei padani, vabbè, non lo so. Ma quale provocazione? No. Sono io la provocazione, mo. No, dai, vabbè. Ma non lo so, c'è gente smembrata lì nel Belgistan, a Bruxelles, e tu pensi io che sono una provocazione. No, guarda, no, che no. Se l'Occidente non reagisce, finisce. Peggio dei cristiani iracheni, sai chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Monsignore vescovo di Mosul, che è stato cacciato. Quindi invece di pensare lui alla Lussana, lui sacco a reagire qua. A reagire, ma cosa dovrei fare? Cioè, nel senso, cosa io sono. Cosa dovrei fare? Cioè, no, fammi capire, Vincino, cosa dovremmo fare per reagire? No, non so. Sei venuto qua a Roma a difendere il Colosseo, San Pietro, cosa dovrei fare? Per il tuo lavoro. La ronda no. Sentite per esempio qua, cara Aurora, ti farà arrabbiare, Massimo Fini, scrittore, anche amico personale, io lo ascolto sempre con piacere, anche se le sue posizioni sono molto provocatorie a volte. Sono un po' provocatorie, cioè dice in pratica loro hanno i kamikaze e noi i droni, come dire, è una guerra, cioè noi attacchiamo in un modo e loro rispondono in un altro. Senti Massimo Fini. Laggiù ci sono uomini che combattono e si battono, direi con grande valore, contro macchine, perché noi usiamo droni, usiamo bombardieri. E anche qui, quando vengono a fare questi attentati che a noi giustamente spaventano, però mettono in gioco totalmente la loro vita. Cioè, capito Vincino? È una battaglia, capito Aurora? È una battaglia. Cioè, noi ma guarda che Maometto è stato un profeta, un soldato, e l'Islam è una forza trascendente. Questa è gente che non c'ha paura di morire, noi abbiamo quasi paura ormai di vivere, quindi... Ma attenzione però a dire questa è gente, cioè cosa vuol dire per te tutti i musulmani? Ti regalo un dessetto colorato, Milan, che così ti difendi. Mi difendo. Io ho capito, Vincino, la società multietica, ma non l'ho voluta, guarda che io Aurora è da giorni che combatto, anche su Facebook. Milan condurrai a Radio Califfo, tranquillo, nessun problema, non succederà niente. No, non succederà. Allora, io ti informo che combatto su Facebook, gente, perché mi accusano, molti miei amici, di essere troppo radicale, di criticare troppo l'Islam, di dire ma insomma, devi capire, devi comprendere. Io dico invece da giorni che abbiamo un fottuto problema con una specifica religione, io lo dico, ho il coraggio di dirlo e lo ammetto pubblicamente, però dire che tutti... Siamo parecchio di destra anche, no? No, sì. però bisogna prendere coscienza che questi che fanno quello che hanno fatto a Bruxelles, lo fanno testamento loro, e adesso sono in fuga a dire colpiremo ancora i crociati perché sono infedeli e non credono in Allah. Nel senso, sono spinti da questo fanatismo, non è che sono spinti dal volere conquistare, che ne so, dei soldi o un terreno, un territorio, Vincino, cioè non sono spinti il territorio lo vogliono conquistare, però il territorio, con le macchine, le case, tutto, i soldi, non è che questo non c'entra, Però è il fanatismo religioso, cioè non si può far finta che il fanatismo religioso non abbia un ruolo in queste cose. Ce lo raccontano tutti i giorni, no? Allora, però guarda che i gessetti sono potenti, non credere che hai toccato i gessetti, il segno, la matita, racconto disegnato ha una forza enorme, comunque quello infatti, ho dedicato la mia vita io. Tocchi il gessetto a uno che vive con la matita in mano, ha fatto certo che è potente la matita, li hanno fatti fuori tutti quelli di Charlie Hebdo, quindi altro che potente la matita, fino in Italia tanto nessuno corre questo rischio, non c'è nessun problema, perché satira contro il califo e contro i maomettani, contro i kamikaze, l'abbiamo sempre fatta, gioia mia. L'abbiamo sempre fatta, dal male del 78 sino a oggi, e continuiamo a farla. Infatti c'è il busto di Andreotti perché fa la satira, ha fatto la satira. No, è chiaro. Però peraltro mettilo fuori che però mi spaventa. Ma quello è il potere del ribaltamento che ti dà la satira, l'ironia, cioè quello è il karma scialesco, la capacità di noi occidentali di saper ridere anche di Dio, no? Perché di guerra e di religione ne abbiamo fatte anche noi, però siamo arrivati poi ai trattati sulla tolleranza religiosa e siamo quello che siamo adesso, perché sappiamo anche ridere, non aver paura di Dio e il nome della rosa, no? Parliamo della poetica però è bello questo, però è bello questo gioia mia di Vinci, gioia mia, com'è che l'ha chiamata Vincino? È più giovane obiettivamente, poi attenzione, dobbiamo andare al traffico, oltre a essere giovane lo sappiamo, è anche incinta, io avevo lanciato questo contest sul nome, 25 anni sei incinta, abbiamo lanciato, non si dice l'età di una donna, si dice l'età di Valerio Rocchetti che oggi compie 40 anni. Questo e siamo coetanei, siamo tutti e due dello stesso anno. È un bel manzo anche lui, un bel manzo padano, è di Roma ed è a Garbatella. Sì, non è un bel manzo padano, un manzo laziale, ma va bene. Va bene lo stesso? Ovviamente dice subito Valerio Rocchetti che tiene la Roma, che laziale no, grazie Aurora. Come territorio, Lazio, insomma, sì, certo. Vabbè, dobbiamo andare al traffico e poi in segreteria credo che ci sia qualcuno che risponde al contest sul nome da dare alla figlia di Aurora Lussana, il nome da dare, perché lo scegliamo noi, questa è la novità, tra poco. Uè, le sfile traffic. Ma perché davvero pensi che la Mogherini ieri si è messa a piangere? Oi Alessandro Milan, sei molto bravo, però non so per quale motivo l'Africa subsahariana non fa parte del mondo. Ma anche in Costa d'Avorio, è successo una settimana fa, hanno ammazzato tante persone sulla spiaggia, nessuno ne parla. Milan, ma tu ti immagini la Margaret Thatcher che si mette a piangere perché le hanno preso le Falklands? Dai! Milan, visto che parliamo di Islam, Islam è buono, Islam è cattivo, mi piacerebbe vedere tutte le comunità islamiche in piazza a manifestare contro l'Islam distorto, come lo nominate voi. Milan, sono fiorentino. Senti, mi dispiace di quello che è successo in Belgio, come in Turchia, come da altre parti. Comunque, buona Pasqua a te, alla tua famiglia e a tutta l'organizzazione di Italia 4. Ciao, buona Pasqua a tutti. Italia 4, ma che è? Italia 4, fiorentino. Vabbè, buona Pasqua anche a te. Comunque, noi siamo in diretta anche domani. Non sono questi i nomi per il contest, per la figlia di Aurora sono questi. Senti qua, Aurora, prendi nota. Anche un padre, non è che sono andata alla banca del seme. Il padre poi lo informiamo del nome quando sarà quello vincitore, glielo diremo. Quando poi il padre, che è l'onorevole Molteni, ricordiamo, della Lega. Sì. Beh, insomma, come sì, è lui, Vincino, attenzione, ci sta dando una notizia, è lui il padre, è tuo marito, insomma, l'onorevole Molteni della Lega, quando vincerà il nome che vincerà, glielo renderemo noto, notaio, carta bollata, e quello sarà il nome. Dai, forza, ecco i nomi. Buongiorno Alessandro, suggerisco ad Aurora di chiamare la figlia Assunta, nascerà con i debiti sulle spalle, ma almeno avrà l'illusione di non essere disoccupata. La bimba va chiamata Libera. Grande Aurora Lussana, una berga femmina doc. Ciao Alessandro, ho visto la Lussana, è un gran pezzo di manza padana. Oh Mila, sono fiorentino, stai a sentire, finalmente Aurora, era tanto che non la sentivo. La adoro quella donna, la adoro in tutti i sensi. Una cosa, però mi devi dire che per parlare un po' meno scientifico, se no fa la fotocopia della Veronica Gentili, che lo sai, che mi sta su ragioni. Eccola lì, vabbè, in realtà c'erano pochi nomi, Assunta e Libera per ora, ti piacciono? Sì, belli, belli, belli, belli. Ma sai che c'hai una media di radioascoltatori niente male, bravo Milan. Brava, Vincino, tu come chiameresti la figlia padana doc di Aurora? Puoi dire anche tu, non... Rosalia, bello, dai. Rosalia è stupendo. Rosalia è bellissimo. È bellissimo, da Palermo va molto forte come Rosalia è fantastico per un'unione tra i popoli, multiculturalismo, ma... per un no, mi sa che no, vabbè, no, bellissimo nome, altro no, stavo pensando, ma piace che non c'ho la R arrotolata che c'ha lui da siculo. Vabbè, sì. ce n'è uno senza R, siculo Vincino, uno senza R. Perché... uno senza, ma quella è una santa selvaggia, Agata. Là, in una Agata è un po' più catanese, diciamo, però va bene. Va bene. Agatha, se è catanese già Vincino comincia a storcere un po'. Vabbè, però mi faccio sentire così, Berlusconi, voglio chiudere con Berlusconi. Berlusconi che dice, si è presentato con degli occhiali, ragazzi. Si sembrava un giocatore di Texas Hold'em, grande Silvio Berlusconi, sentilo qua. Da Giorgia Meloni e Matteo Salvini si è sentito pugnalato. Ma guardi, io quanto a pugnalato, no, io il Berlusconi lo conosco, è come Batman alla corazza di Kevlar. Cioè, parla di se stesso, io il Berlusconi lo conosco, Vincino, è fantastico, è come Batman. Ma questo l'ha preso da Renzi, che parla sempre di se stesso in terza persona, assolutamente. No, sì, no, sì. E comunque sia, no, ha ragione, per resistere a 20 anni di politica di cosa deve avere... cravatta di Cleo, tutto di Cleo, mutande di Kevlar, le mutande soprattutto nella politica italiana, le mutande soprattutto. Vi devo salutare, buon giovedì santo, buon davvero giovedì. Un grande abbraccio a Vincino, un grande abbraccio a Aurora, continua il contest, mi raccomando, al 349 238 6666 via WhatsApp, ma mandateceli un po' di più di nomi, dai, per ora Assunta e Libera, Assunta, oltre a Rosalia, dai, suggerito da Vincino, va bene, lo tiriamo dentro. E poi dobbiamo inventarci come fare questo contest, dove mettere i voti. Dai, vi saluto, a dopo la rassegna stampa. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. E allora, cari amici, alle 7:20 minuti siamo qua a leggere i giornali e poi affrontare i temi, i giornali che ovviamente affrontano soprattutto la questione di Bruxelles, ma non solo, andiamo allora a sfogliarli. In questo giovedì 24 marzo, intanto i titoli, a parte il Sole 24 Ore che è un'apertura sulla, avete sentito, notizia della nascita della Super Popolare, questo è il titolo, nasce la Super Popolare con i board di Banco Popolare e BPM che hanno approvato l'accordo per la fusione dei due istituti e quindi facendo di fatto nascere la terza banca italiana. A parte appunto il Sole 24 Ore, i titoli principali degli altri quotidiani sono tutti declinati alla questione di Bruxelles. Per il Corriere della Sera, 4 in fuga, colpiremo ancora. Questo è il titolo inquietante. Come inquietante sono le prime pagine di Repubblica. Sentite qui, il Belgio conosceva i kamikaze. Così il Messaggero, un kamikaze fu preso e rilasciato. La Stampa, Europa, la grande caccia ai terroristi. Anche il Fatto Quotidiano, ma il Belgio sapeva tutto. Un killer rilasciato, 2 in fuga. Il Giornale invece mette la notizia sangue nostro, perché tra i dispersi anche una nostra connazionale che era in metropolitana durante gli attentati. Libero invece, occhio alle Molenbeek italiane, un po' il caso che è stato portato alla luce qualche giorno fa da Giulio Meotti sul Foglio, di tutte queste enclave a grande densità straniera, soprattutto musulmana, in tutta Europa, nelle grandi città, a partire dalla Molenbeek di Bruxelles. Per Avvenire il titolo è Le ferite aperte, mentre l'Unità, Europa reagisci, siamo insomma ai titoli un po' più neutri. E voglio partire proprio dalla questione di Bruxelles, dalle novità che sono emerse dopo gli attentati nella capitale europea. Allora, quale novità? Beh, Marco Imarisio sul Corriere della Sera racconta l'identikit degli assassini. Uno dei kamikaze venne fermato e rilasciato. E davvero sapere queste notizie fa abbastanza stupore, eh? I due fratelli che si sono fatti saltare, uno all'aeroporto e uno alla metropolitana, sono i fratelli El Bakrawi. Uno Khalid, uno Ibrahim. Khalid, il più piccolo, 27 anni, aveva anche lavorato per qualche tempo dietro al bancone in un bar, mentre Ibrahim condivideva con il più grande degli Abdeslam, il capo, la visione di filmati truculenti targati ISIS, sempre nel bar che frequentava a Molenbeek, alternata a una massiccia dose di pornografia. E si sono fatti saltare. Khalid, nel giugno 2015, venne arrestato in Turchia sulla strada per la Siria, venne stradato in Olanda con, tra l'altro, l'avviso della Turchia, guardate che è un terrorista, ma torna subito in libertà. Per le autorità belghe non aveva legami con il terrorismo. Secondo invece altri giornali, i due fratelli dovevano stare in carcere fino al 2018 al 2020. Ma sono stati, perché erano dei criminali con dei precedenti penali, sono stati rilasciati prima. E poi c'è l'altro che si è fatto esplodere anche lui all'aeroporto insieme a uno dei due fratelli El Bakrawi, è Najim Lashraoui, conosciuto anche come Soufyan Khayal. E lui è considerato l'artificiere di tutto ciò. I due fratelli kamikaze dovevano essere in cella. Guardate il titolo di Repubblica, come vi ho detto a pagina 6. Dovevano essere in cella. Tra l'altro è stato trovato il testamento "Non finirò come Salah", il testamento di uno di questi, come Salah Abdeslam, che è stato invece arrestato dopo gli attentati al Bataclan e un lungo inseguimento finito proprio a Molenbeek, Bruxelles. Insomma, questo a dire, ieri avevamo l'eurodeputato Marc Tarabella ai microfoni nostri che ci diceva che in Belgio hanno fatto tutto il possibile. Insomma, leggere i titoli sembra abbastanza incredibile tutto ciò. Eccolo qua, in fuga i complici, perché attenzione, non è stato ancora identificato chi sia quell'uomo vestito di bianco, col giubbetto bianco e il cappello nero, a fianco ai due attentatori nell'aeroporto. E poi ci sono almeno 4 terroristi in fuga, questo titola e racconta pagina 5 il Corriere della Sera, almeno 4. E tra l'altro uno di questi, intercettato dalla polizia in una conversazione, ha detto le seguenti frasi. Meditate, gente, meditate. Io non faccio parte dell'esercito siriano. Io combatto al fianco dei Mujahideen per instaurare la legge di Allah e uccidere le persone che si oppongono ad Allah. Adesso sto per tornare in Belgio per uccidere i miscredenti. Poi mi dicono ancora e mi scrivono privatamente, amici, che la religione non c'entra. Sì, certo, è utilizzata come un pretesto, ma c'entra? No, vi faccio questa domanda. Uno che dice vado a uccidere chi non crede in Allah. C'entra? Non lo so, datevi voi la risposta, perché pare che non si possa dare. Tra le vittime, abbiamo detto, purtroppo c'è anche un italiano, Patricia Rizzo, di cui non si hanno più notizie. Andava in metro fino a Melbeck, la fermata dove c'è stato il kamikaze, e ovviamente si teme che sia tra le vittime. Ora, perché dico si teme? Perché guardate che la cosa più impressionante, secondo me, l'ho letta sul Messaggero. A pagina 4 viene intervistato un medico italiano che è a Bruxelles e che ha operato, Michele Grieco si chiama, è un chirurgo. E i dettagli che racconta sul Messaggero sono di questo tenore. Sono arrivati pazienti con schegge di metallo negli organi e in altre parti del corpo. Non avevo mai visto niente del genere. Quello che è accaduto non ha nulla a che vedere con la chirurgia delle maxi emergenze che si studia sui libri. È romano, 31 anni, era prima al Sant'Andrea nella capitale. Da ottobre lavora all'ospedale universitario belga di Ghent, a 30 km da Bruxelles, e quindi ha dovuto operare. Sono entrato in sala operatoria alle 8 del mattino e non sono uscito fino alle 2 di notte. È stato difficile gestire contaminazione tra schegge, intossicazioni, ustioni. La maggior parte dei feriti è arrivata già sedata, ma le loro condizioni sono in genere pazienti delicatissimi, instabili, difficili, hanno anche bisogno di una gestione psicologica avanzata, per questo li hanno mandati qui. E ora, dice, abbiamo anche finito i posti in terapia intensiva e abbiamo dovuto rimandare interventi già programmati, anche interventi oncologici. Insomma, questo per dire, si teme che sia tra le vittime, purtroppo molte vittime non sono state ancora identificate perché il kamikaze che esplode, le condizioni sono davvero devastanti di come vengono trovate queste persone. Allora facciamo così, perché gli articoli su Bruxelles continuerò a leggerli anche dopo la pubblicità, ma siccome questo è il momento dell'articolo che mi fa più incazzare della giornata, è il momento di andare all'articolo da Mani sul Volante. Facciamo dunque una rapida incursione in Italia per poi tornare alle tematiche terroristiche. Allora, in Italia mi ha colpito e ho letto questa notizia su Repubblica pagina 22, che già nel titolo è Franca Selvatici da Firenze che ne scrive, già nel titolo dice tutto: è troppo ricco, non può essere uno spacciatore, e i giudici lo assolvono. Succede appunto a Firenze, dove la Guardia di Finanza ha beccato con un controllo su un'auto una persona che aveva 597 grammi di cocaina pura, corrispondente a 3.144 dosi medie giornaliere. Io non so fare bene i conti, se voi usufruite potete fare il calcolo. 3.144 dosi medie giornaliere. Hanno detto, vabbè, insomma, incredibile, uno spacciatore in grande stile. Arrestato, detenzione e fini di spaccio, l'uomo è stato processato e assolto, perché il giudice dice: se si esclude l'elemento del quantitativo detenuto, e sì, escludiamolo, se si esclude quello, assolutamente nulla permette di affermare che sia uno spacciatore. D'altronde, non hanno trovato bilancine, celofan, sostanze da taglio, contatti telefonici di eventuali clienti, e dunque questo imputato di 42 anni, forte consumatore di cocaina, beh certo, è molto benestante, secondo il giudice ha comprato quelle migliaia di dosi per farne una provvista per uso personale. 3.544 dosi, è troppo ricco, non può essere uno spacciatore. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che, quando queste cose capitano, dice: sono cose che capitano. Alessandro Milan, anche in Vaticano, una luce che illumina la giornata. Beh, vabbè, ma chi è? Non è come il nostro Andro Mercù, che è l'imitatore più straordinario che io conosca sulla faccia della terra, del Papa, e non solo del Papa. E tra l'altro, io quando arrivano amici in radio passo sempre da Andro Mercù e gli devo far fare questa scena, dico: dai, facci una benedizione. Lui è sempre gentilissimo, lo abbraccio e lo ringrazio per questo. Comunque, insomma, visto che sono qui a Roma, in Vaticano, è ben accetto Papa Francesco. Allora, cari ascoltatori, continuiamo con la lettura di quelli che sono gli articoli relativi a Bruxelles. Soprattutto con cosa? Beh, un'altra questione, oltre a evidentemente l'inefficienza della polizia belga, è la mancata cooperazione totale, il disastro di cooperazione fallita tra le varie procure dei vari paesi europei. Questo è uno dei problemi per cui si muovono spesso senza essere beccati questi terroristi. E guardate qui, Foreign Fighters, tutte quelle notizie che i servizi segreti non si scambiano. Pagina 14 del Corriere della Sera, Giovanni Bianconi racconta così. Forse un esempio può aiutare a capire il problema. Primavera 2014. Rientrò in Europa dalla Siria il francese di origine algerina Mehdi Nemouche. Sbarcò a Francoforte. L'autorità tedesca si accorse che era segnalato come sospetto terrorista e avvisò la sicurezza francese. Poi se ne persero le tracce, finché Nemouche riapparve a Bruxelles il 24 maggio, dove, secondo l'accusa, ha ucciso 4 persone. Se lo stato di allerta sul suo nome fosse stato esteso alle altre forze di polizia europee, forse i suoi movimenti per il continente si sarebbero potuti intercettare prima. Forse. Ma contro il terrorismo internazionale si va per tentativi. E anche Repubblica, racconta della mancata cooperazione totale totale mancata cooperazione che c'è tra le procure europee, tra coloro che devono indagare. Niente dati comuni e 007 gelosi. Ecco i buchi della sicurezza. E Gianluca Di Feo, l'articolo inizia in prima pagina di Repubblica, che racconta: l'Europa dell'antiterrorismo è una ragnatela di uffici burocratici grigi, come ormai rischiano di apparire tutte le istituzioni dell'Unione. Fin troppo facile definire un colabrodo che ferma qualunque iniziativa per potenziare la sicurezza. Prendete per esempio Europol, che ha pure un direttore, il britannico Rob Mark Wainwright, con un curriculum davvero 007. Cosa fa l'Europol? Dal 2001 gli organici sono passati da 323 a 940 persone. Si occupano di tutto: frodi telematiche, mafie. Un quarto dei dipendenti sono olandesi, ma non perché brillino come poliziotti, ma perché la sede è all'Aia e bisogna rispettare le consuetudini lottizzatorie. Solo 2 mesi fa è stato inaugurato un centro antiterrorismo, sempre all'Aia, anche se nel 2015 solo il 3% del bilancio è servito per migliorare le tecniche di contrasto agli stragisti. Insomma, Federica Mogherini, colei che ha pianto anche con tanto di critica, anch'io mi sono permesso di criticare, a dire, non criticare la debolezza umana che ci sta, ma criticare il fatto che forse in quel ruolo, in quel momento, la debolezza è un qualcosa che uno deve cercare di nascondere, perché nell'era della comunicazione quell'immagine delle lacrime possono essere usate anche contro di noi, appunto per accusarci di debolezza. E allora Federica Mogherini oggi fa un'intervista a Repubblica, pagina 4, intervistata da Andrea Bonanni. Viene liquidata la questione delle lacrime in 2 righe, dicendo: le lacrime di Federica Mogherini si sono asciugate, punto. E non si torna più sull'argomento. Reagire, ecco, ma come dobbiamo reagire? Beh, intanto regala questa straordinaria frase la Mogherini: il problema è che anche le decisioni prese non hanno seguito. Per esempio l'Europol. Si parlava dopo il 2001, il 21 settembre, di migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i servizi di intelligence, 15 anni fa, e si diceva di farlo senza indugi. Senza indugi, e invece siamo ancora qui. La frase straordinaria che regala è: tutti sappiamo quello che bisogna fare, ma poi bisogna farlo davvero. Questo all'interno dell'intervista. Comunque Federica Mogherini dice: ora cooperazione tra le intelligence, siamo una cosa sola. Vari giornali, dopo che il Foglio ha lanciato questa cosa, ora il Messaggero, Libero, il Fatto Quotidiano, cercano di porre un accento su quelle che sono le Molenbeek italiane, cioè queste grandi enclave nelle grandi città soprattutto, che sfuggono un po' al controllo delle autorità, delle forze dell'ordine soprattutto, perché c'è una grande concentrazione di stranieri e soprattutto di comunità musulmane. E quelle Molenbeek italiane dove l'ISIS cerca i suoi adepti, il Messaggero: a Bologna il 14,7% dei residenti sono stranieri, il 34% di loro è sotto la soglia di povertà. Oh mamma mia, adesso inizia la sociologia a dire le periferie degradate che portano gente a farsi esplodere. Vabbè, insomma, non seguirò questa linea neanche per mezzo secondo, ma queste analisi esistono molto sui giornali. Renzi invece, il premier Renzi, chiama in qualche modo le opposizioni a una sorta di unità nell'interesse generale italiano. Abbiamo messo in campo tutte le misure di sicurezza necessarie, dice il Presidente del Consiglio, anche se ad ora non risulta una minaccia specifica in Italia, e chiama appunto all'appello, all'unità. E in qualche modo Luigi Di Maio, del Movimento 5 Stelle, intervistato da Repubblica da Annalisa Cuzzocrea a pagina 12, risponde però con una proposta: se vogliono un fronte comune contro il terrorismo, le altre forze politiche lavorino con noi perché l'Europa metta sanzioni ai paesi del Golfo, vero bancomat dell'ISIS. Dunque Di Maio, esponente del Movimento 5 Stelle, che ieri ha incontrato gli ambasciatori dell'Unione Europea, 28 rappresentanti dell'Unione Europea d'Italia, lo ha fatto nella residenza dell'ambasciatore olandese, dice... mettere le sanzioni ai paesi del Golfo. L'Unione Europea prenda una posizione. I paesi che finanziano l'ISIS sono nostri nemici. L'Europa deve avere il coraggio di parlare di sanzioni. Non possiamo permetterci di avere relazioni commerciali con quegli stati. Il tema è molto, molto delicato, come sapete, quando si toccano gli interessi. Ed è un tema che però Di Maio pensa di affrontare così e fa questa proposta. Tra l'altro dell'incontro con i diplomatici europei parla anche il Corriere della Sera, che aveva anticipato la notizia. Emanuele Buzzi racconta appunto di Di Maio che si è presentato con Rocco Casalino, responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle, e ha incontrato i 28 dell'Unione Europea. Gli argomenti sono e devono rimanere riservati, però sul Corriere della Sera c'è qualche spunto dei temi che Di Maio ha affrontato con i diplomatici. Cosa farebbe se fosse premier? Questa è la domanda che i diplomatici hanno posto a Di Maio. Ha parlato di corruzione, ha parlato insomma delle tematiche del Movimento 5 Stelle. C'è da dire che il Corriere dice: l'unico imbarazzo c'è stato, a quanto risulta al Corriere, quando Di Maio ha detto: proporrei 2 euro, cioè 2 monete diverse, una per i paesi del nord e l'altra per il sud dell'Europa. Poi ha parlato dell'uso della democrazia diretta, delle votazioni online per i passaggi legislativi, degli strumenti per recepire la volontà dell'opinione pubblica. Insomma, l'unico commento che c'è da parte dei diplomatici al Corriere è: c'è tantissima curiosità intorno al movimento. E anche Di Maio dice: sono onorato di questo invito. Va bene, cosa farebbe se fosse premier Mauro Meazza, per esempio? Chi lo sa, che farebbe Mauro? Buongiorno, buongiorno caro Alessandro. Innanzitutto scusami, non rispondo immediatamente perché sono lusingato. Ho sentito che ci sono telefonate anche di persone molto, molto, molto importanti alla tua segreteria, e quindi l'idea di essere in contatto con te, insomma, oggi un po' mi emoziona. Oh, infatti, vedi. No, no, dunque sentirai sicuramente lo scudetto all'Inter di, con un decreto legge per 10 anni anche. No, vabbè, io intanto ne assegnerei uno così, tanto per. Ma anche perché si parla di un decreto legge oggi sul Sole 24 Ore per quanto riguarda gli obbligazionisti coinvolti nella resolution, nel fallimento delle 4 banche. Perché il governo sta pensando a un decreto legge per indennizzarli tutti quanti. Ne parliamo, troverai i dettagli a cura di Marco Mobile, pagina 6 oggi del Sole 24 Ore. Oh, naturalmente tutte le vicende, gli effetti della fusione di questa super popolare nelle primissime pagine, ma ti invito a non trascurare il decreto legge cosiddetto banche, che ha ricevuto il primo voto di fiducia dalla Camera, e nel quale ci sono ad esempio anche delle disposizioni per togliere l'anatocismo sulle carte revolving, per poter pagare le multe online senza per questo perdere la possibilità dello sconto dei 5 giorni, eccetera, eccetera. Trovi tutto sul Sole 24 Ore di oggi. Oh, poi, siccome so che non sei a Milano, ma sei a Roma, mi pare di aver capito. Sì, è vero. Ecco, allora ricordati, c'è English 24 oggi col Sole 24 Ore, così se devi aiutare un turista, ma è chiaro, non è chiaro. Facciamo cattive figure. No, va bene. Ci sono i turisti anche a Milano, proprio se poi no, è vero, però mi pare che in questo periodo sia più probabile trovarli anche a Roma. Comunque sì, English 24 con il 24 potevi comprarlo anche se stavi, non so, a Pistoia, tanto per dire, non è che ti mancava niente, però a Roma può darsi che ti capiti di incontrare i turisti. O poi ti volevo segnalare, è confermata la proroga per il patent box. Che tu, che tu ignori, ma invece è una misura molto importante. Si va al 30 maggio, ti spiegano tutte le pagine di norme e tributi. E poi, oggi essendo giovedì, è giovedì giusto? Sì. Oggi? Molto bene, allora oggi essendo giovedì, casa 24, nelle pagine Sole 24 Ore, tra le varie cose anche il calcolo del bonus, dei bonus edilizi già nella precompilata, che non è martedì condominio e neanche venerdì pesce condominio. No, è giovedì che giovedì casa 24 casa 24. Io a questo punto mi porterei un po' avanti facendoci già tanti cari auguri, questa volta non per il campionato ma per Pasqua. Sì. E chissà, forse ci sentiremo domani. Forse... Ma c'è il campionato? Vuoi che faccia una previsione? Una no, previsione così? No, non c'è. Non mi risulta. E allora, nessun pronostico. Limitiamoci solo agli auguri di buona Pasqua. Forse ci sentiremo domani, forse no, in ogni caso. Come forse? Ci sei domani o no? No, aspetta, ci sei domani o no? Ma domani veramente c'è un problema con i giornali, caro Alessandro. Non volevo dirtelo in diretta, ma essendo cioè? oggi c'è uno sciopero per quanto riguarda i poligrafi, e questo non ti porterà nei quotidiani per domani. Tutti i quotidiani, va bene. Mi dai una notizia incredibile. Così, in diretta. In diretta, è il bello della diretta. Esattamente. E a questo punto, avendoti lasciato con questa ulteriore informazione... Mm-hmm. Penso di aver concluso il mio compito. Sì. Che mestizia. Traffico! Alessandro Milan, il sindaco di Roma dell'informazione. Milan, non era un complimento, Lo so, posso immaginarlo. Cari ascoltatori, 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi, anche WhatsApp, per dirci le vostre sigle. Qua adesso tutti a dire: ma che si fa domani il giornale? Ci dobbiamo inventare qualcosa. A parte che qualche giornale magari uscirà, ma comunque ci dovremo inventare qualcosa. Grazie Mauro Meazza per aver gettato nel panico la redazione di 24 Mattino. Ma noi reagiremo, perché 24 Mattino è così. Reagisce sempre, ogni giorno, già svegliandosi alle 5 del mattino la macchina si mette in moto. Allora, cari ascoltatori, siamo a raccontare delle amministrative. A Roma c'è il dilemma Bertolaso, parliamoci chiaro, il dilemma Bertolaso, perché Silvio Berlusconi, i sondaggi sono da brivido per Repubblica dice con Carmelo Lopapa che un sondaggio di Forza Italia dice che Bertolaso è sotto il 10% nell'indice di gradimento dei romani, e quindi Berlusconi, che fa un'intervista al Mattino oggi, rilascia un'intervista al Mattino di 2 pagine molto ampia, a parlare di crisi internazionale, di attacchi, di Bruxelles, poi viene alla politica italiana, dice Bertolaso è blindato. In realtà raccontano molti giornali nel retroscena che Berlusconi deciderà dopo Pasqua, vedendo e studiando i sondaggi, quello che si vocifera, e cioè l'ipotesi di un centrodestra così diviso, e quindi abbandonare Bertolaso e unirsi, che ne so, a Marchini, trovare un altro cavallo vincente per far convogliare più voti e non farli disperdere tra più candidati, potrebbe diventare realtà. Bertolaso però blindato per il momento, dice Silvio Berlusconi, che poi, quando viene a parlare di politica italiana, in questa lunga intervista al direttore del Mattino, dice di Renzi: è un presidente del Consiglio abusivo e illegittimo, con primarie manovrate ha preso in mano la segreteria del PD, da cui ha fatto il balzo a Palazzo Chigi dopo aver garantito che mai ci sarebbe andato se non attraverso regolari elezioni. Guida un governo non eletto dal popolo, che si sostiene grazie al voto di 60 senatori del centrodestra, un governo contro il voto degli italiani che calpesta la sovranità nazionale. Questo dice Berlusconi di Renzi. Mentre Renzi, invece, secondo questo retroscena del Fatto Quotidiano, qui siamo veramente all'idea dei complotti contro complotti, secondo il Fatto Quotidiano Paola Zanca, Renzi tiferebbe per Virginia Raggi, sotto, ovviamente non lo potrà mai ammettere, a Roma. E perché tiferebbe per Roma? Perché la sua vera partita, secondo Renzi, sono le politiche, le prossime elezioni. E mettere sindaco di Roma una del Movimento 5 Stelle potrebbe arrivare a far logorare lo stesso movimento. Avrebbe detto questa frase molto molto al vetriolo Renzi: immaginate il consiglio comunale di Roma con 29 consiglieri grillini, sarebbe meglio che andare al cinema. Così Renzi pare che veda la questione di Roma, e quindi sotto sotto spererebbe di vedere la Raggi vincere a Roma. Mentre invece c'è Varoufakis in Italia, a Roma per l'appunto, c'è Varoufakis, e il Corriere della Sera racconta che da Varoufakis si sono visti un po' tutti, Civati, ma anche Toni Negri. Ricordate Toni Negri, quello che è stato 3 giorni in Parlamento e poi dopo gode ancora oggi di un vitalizio? Toni Negri, il filosofo, saggista e sociologo che fu accusato di aver fiancheggiato le Brigate Rosse, scrive Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, condannato per associazione sovversiva e seduto in sesta fila ad ascoltare Varoufakis. Sono toni negri, dice la giornalista, e sono, rispetto alla stampa, assente, assolutamente assente. Toni negri, ma anche altri, a vedere. Varoufakis, Fassina, da Torre non c'erano invece. Fassina e da Torre non erano presenti. Vabbè, lasciamo la politica. C'è tempo per dare due notizie di cronaca? Sì. Allora, questa notizia che mi inquieta, della stampa: la paghetta finisce nelle slot, 200.000 adolescenti sono malati di slot, 200.000 adolescenti, davvero mi inquieta. La stampa dedica una inchiesta, un articolo in prima pagina, Gabriele Martini, 8:30 di mattina, in tabaccheria, ragazzino indossa un cappello con visiera e scarpe firmate, avrà 14 anni, al massimo 15, e dice: gioco. La legge non funziona, aumenta i giocatori d'azzardo tra 14 e 19 anni. Mentre questa notizia che c'è su Libero, attenzione donne, attenzione uomini, è una ricerca del CNR che dice questo: abbiamo cervelli diversi, noi uomini e voi donne. Lui ha più neuroni e quindi segue il pensiero logico. Le donne invece sono più intuitive e multitasking. Gli uomini più logici e razionali. Lo dice il CNR, eh? Lo dice il CNR. Che dobbiamo fare? Questo è scritto sul Libero. E allora siamo alla conclusione. La carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Siamo alla pagina dedicata all'albergo a ore. Non è quello che pensate voi! Valerio Rocchetti, non ridere! Prega!